La fiera costituisce un po' i gioielli di famiglia per il comune di Bologna e per la città metropolitana. È lo statuto di fiere che tutelava questi gioielli di famiglia, questo patrimonio, diciamo, di intelligenza, di esperienza economica e di lavoro di qualità, prevedeva fino al 20, fino a quando sarà cambiato lo statuto in via definitiva, che i soci pubblici della fiera, coloro i quali l'hanno inventata con conferimenti di ogni ordine e grado, detenessero la cosiddetta golden share, cioè la possibilità di governare l'ente fieristico, e al tempo stesso la possibilità che questo governo riguardasse anche gli immobili, i marchi, in modo tale che non si potessero alienare beni conferiti dai pubblici da parte di soggetti privati sostanzialmente. Quello che hanno fatto ieri in comune, che sarà fatto temo in città metropolitana e in regione, è dismettere le prerogative dei soci pubblici, sostanzialmente facendo un regalo ai privati. Quello che succederà in futuro è che la fiera funzionerà su base seccamente privatistica, e il paradosso è che i soci pubblici, che oggi detengono la maggioranza della fiera perché sono insieme al 52%, sostanzialmente si impegnano a non fare tra loro dei patti, in modo che almeno sulla base del fatto che hanno la maggioranza azionaria possano governare l'ente fieristico. Peggio ancora quanto ai patrimoni, perché mentre sembrava fino a ieri mattina che almeno su questo la giunta avesse fatto in commissione con l'aiuto dei consiglieri un passo indietro, rimettendo all'assemblea straordinaria, le cui deliberazioni devono passare in consiglio comunale, il destino dei beni immobili, ecco, con una modifica, con un emendamento di giunta pervenuto mezz'ora prima dell'inizio del consiglio di ieri, si è deciso di affidare anche le deliberazioni sugli immobili all'assemblea ordinaria, e questo comporta il fatto che i gioielli di famiglia potranno essere eventualmente, se lo si deciderà, svenduti senza neppure passare in consiglio. I soci pubblici, diciamo, in fiera sono anche quelli che economicamente hanno investito di più. No, sono gli unici che hanno investito, diciamoci la verità, tranne piccolissime cose, fino a oggi sono quelli che hanno investito, perché in realtà le capitalizzazioni dei privati non sono state autentiche, sono state sostanzialmente nominali, però è possibilissimo che invece da adesso i soci privati investano, e quindi è possibile che dal giorno 24, cioè da quando ci sarà il CDA con la possibilità della ricapitalizzazione, i soci pubblici, in particolare il sindaco Merola, viva, diciamo, un bizzarro imbarazzo: o si dichiara a favore della ricapitalizzazione da parte dei privati, che finalmente mettono dei soldi nella fiera, ma in questo modo perde la maggioranza come pubblico, oppure, per non perdere la maggioranza come socio pubblico, si mette di traverso rispetto alla ricapitalizzazione dei privati. Ecco, questo capolavoro è il frutto del mutamento statutario che è stato prodotto con la delibera votata ieri in consiglio, tra molti mal di pancia, perché i consiglieri anche di maggioranza mi sembravano, diciamo, in larga parte tutt'altro che felici. È stato grossolano il modo in cui questa discussione si è condotta, perché va avanti fuori dal consiglio comunale da oltre un anno e mezzo, ma noi le ultime modifiche le abbiamo avute mezz'ora prima che iniziasse. Si è discusso dello statuto per una settimana attraverso due commissioni. Il mio ordine del giorno sullo statuto era stato presentato a luglio del 2016, cioè un anno fa. Io francamente penso che i consigli comunali non debbano essere trattati come delle pezze da piedi, specie quando discutono di realtà molto importanti, sia dal punto di vista del territorio, cioè della città, sia dal punto di vista dei livelli occupazionali. Aggiungo un'ultima cosa: quello che ha detto il sindaco Merola rispetto alla vicenda fiera e ai 123 licenziamenti che erano in ballo quando è cominciata questa consigliatura, e cioè Bologna non licenzia, può anche pensarlo, ma non lo potrà dire in futuro, nel senso che potrebbe dirlo, ma non ha le prerogative per farlo valere. Questo mi preoccupa. Ecco, un'ultima domanda proprio su Merola, perché un anno fa lui si era detto contrario a queste modifiche che invece ieri, insomma, ha portato avanti. Secondo te perché ha cambiato idea? Dunque, io non voglio rispondere a questa domanda. Diciamo che il sindaco medesimo non ha risposto, non era in consiglio ieri, io ho letto solo sue dichiarazioni sui giornali. Io immagino che abbia trovato un accordo con i privati sulla gestione della fiera, sulle sue nomine, e che quindi sull'altare di questa intesa abbia sacrificato le prerogative del pubblico, che non sono soltanto le sue prerogative, ma sono le prerogative degli enti che oggi lui rappresenta e che domani rappresenterà qualcun altro. Questo mi pare molto grave.